possiamo cominciare a fare una prima visione a mo' di carrellata dei testi biblici che parlano, da cui si trae, diciamo, la dottrina del peccato originale, no, per avere un'idea di quali sono quelli principali. E poi, come vi dicevo ieri, invece di entrare in dettaglio su qualcuno di questi testi biblici, anche per fare un commento esegetico e teologico, vedremo prima quello che hanno detto i padri, come sono stati letti e discussi nei primi secoli, fino poi ad arrivare alla definizione dogmatica del Concilio di Trento. Poi dopo rivedremo un po' anche, almeno di alcuni, un'analisi un po' più dettagliata anche della scrittura. Allora, senz'altro i testi fondamentalissimi, il testo fondamentalissimo è nell'Antico Testamento il racconto delle origini, Genesi, direi capitolo 3, senz'altro il principale, però per tutti e tre i primi capitoli, da 1 a 3, dove si racconta l'origine dell'uomo con le due narrazioni e poi la caduta, il peccato. Io qui, in questa piccola selezione che ho fatto e che vi ho anche dato, ho messo solo il capitolo 2 e 3 di Genesi, perché ho preso la parte del racconto yavista, la narrazione yavista. Il primo capitolo è la narrazione sacerdotale con l'opera dei sei giorni, e poi dal versetto 2-4, quindi capitolo 2 versetto 4, inizia il racconto yavista, che è una tradizione un po' più antica, anche più utilizza più termini anche concreti e meno teologici, e questa narrazione contiene prima Dio che plasma l'uomo e la donna dalla polvere del suolo, e maschio e femmina, prima fa l'uomo, poi nota che l'uomo è solo e allora vuole dargli un aiuto simile, presenta l'uomo agli animali, e questo è così come immagina l'autore sacro la nascita della donna. Poi l'uomo non trova un aiuto simile tra gli animali, allora Dio forma la donna, come, e Adamo commenta, stupito e contento: questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. E poi comincia subito dopo c'è solo un breve accenno alla condizione dell'uomo e della donna, che erano nudi e non provavano vergogna, e poi si passa al racconto della caduta. Il serpente incita, diciamo, la donna, instilla in lei una sfiducia in Dio, e la donna ci casca, e c'è la descrizione del peccato: la donna che prende dell'albero e ne mangia, poi lo dà all'uomo. Ah, qui ci sono un po' tutti gli elementi che poi fanno parte dell'insegnamento della Chiesa sulle origini e sul peccato. La condizione dell'uomo e della donna, che prima potevano non morire, avevano accesso all'albero della vita, la minaccia di Dio, diciamo l'avvertimento di Dio: se ne mangiate morirete, il serpente che dice no, non morirete affatto, quindi il tema della morte, di come va intesa la morte prima e dopo il peccato, se la morte fisica è conseguenza del peccato oppure no. E poi dopo le conseguenze del peccato, oltre a questo, al fatto della morte, che è un punto senz'altro che va un po' chiarito, Dio che dice alla donna: moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, partorirai figli con dolore, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà, e all'uomo lavorerai col sudore della tua fronte, ritornerai alla polvere da cui sei stato tratto. C'è anche un versetto in cui che è molto commentato nell'ambito patristico, quello delle tuniche di pelli, delle quali Dio poi dota l'uomo e la donna dopo il peccato, perché si coprano, ed è stato variamente interpretato, per alcuni dei padri era il corpo di carne che avrebbero ricevuto dopo il peccato, per altri invece semplicemente un segno così, della fragilità e della debolezza umana. Poi vedremo alcune di queste cose. E alla fine la cacciata dal giardino di Eden, quindi l'impossibilità di avere accesso all'albero della vita. Allora, questo è il grande principale riferimento che sta nell'Antico Testamento. Poi ci sono anche alcuni altri testi che vi dirò, ma volevo dire che l'altro grosso, importantissimo riferimento nel Nuovo Testamento è il capitolo 5 della lettera ai Romani, quel capitolo in cui San Paolo fa il parallelo tra Cristo, nuovo Adamo, e il primo Adamo. Allora dice, in particolare è stato anche oggetto di tantissima riflessione il versetto 12 del capitolo 5. Quindi, dice, leggiamo dall'11. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Poi il versetto 12, che è un versetto particolare perché ha un costrutto, cioè si interrompe, è un versetto che resta come incompleto, come sospeso, perché dice così. Questa è la traduzione attuale della Neo Vulgata. Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato, e poi Paolo qui si interrompe e dice, fino alla legge infatti c'era il peccato nel mondo. Cioè, è come se dice, devo precisare qualcosa, e non continua con quel pensiero, si interrompe e dice... e fa una precisazione. Poi questo lo cercheremo di commentarlo un po' più da vicino. In ogni caso, l'idea di Paolo con cui che qui già si nota è: a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo. Adamo non è nominato, ma è presente, cioè si riferisce a lui. E con il peccato è entrata la morte. E in qualche modo questo ha una relazione causale col fatto che tutti poi gli uomini, e così in tutti gli uomini, si è propagata la morte poiché tutti hanno peccato. Cioè peccato e morte vanno insieme e come se discendessero da Adamo su tutto il resto del genere umano. E ve lo dico perché è un punto che viene fuori molto spesso. C'è qui una preposizione. Per esempio, nella versione che aveva latina, che aveva Agostino, era tradotto con in quo. In quo. Riferito ad Adamo, cioè l'idea sarebbe questa. Così in tutti gli uomini si è propagata la morte. Invece che poiché tutti hanno peccato, dicevano poiché in lui, no, nel quale è riferito ad Adamo, tutti hanno peccato. Cioè Agostino aveva in mente che in qualche modo tutti hanno peccato in Adamo, perché la traduzione che lui aveva era in quo, ecco, dove questo quo relativo è riferito ad Adamo. Adamo. Invece la traduzione attuale, comunque c'era già anche sui tempi dibattito su qual era la traduzione corretta, sarebbe come eo quod, causale, eo quod, cioè come dire per il fatto che tutti hanno peccato, quindi così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché, per il fatto che tutti hanno peccato. Allora, questo giusto per saperlo già un po' da adesso, che è stato uno dei punti così anche molto dibattuti riguardo anche ai tempi della disputa tra Agostino e Pelagiani. Allora, questo passo della lettera ai Romani, ma un po' tutto anche quello che segue, fino almeno fino al versetto 21, è un testo centrale. San Paolo poi dice, per esempio, il dono di grazia però non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Non è un vero parallelismo tra Cristo e Adamo, cioè Cristo ha fatto di più, Cristo quello che si ottiene è di più di quello che si ottiene Adamo. Allora, questo senz'altro è un testo fondamentale perché alla luce della lettura che Paolo fa di Genesi, poi la Chiesa ha interpretato il contenuto di Genesi, okay? E ha tirato fuori da lì la dottrina sul peccato originale. Tra i passi dell'Antico Testamento, questi quindi Genesi capitoli da 1 a 3 e poi capitolo 5 di San Paolo ai Romani sono in assoluto i due testi principali di riferimento, però poi nell'Antico Testamento si trovano altri passi un po' più secondari, diciamo, che vengono utilizzati molto nei dibattiti dell'epoca patristica. Allora, uno è effettivamente importante, è quello del Salmo, nella numerazione attuale, diciamo, Salmo 51, il Salmo di Davide, Miserere, 51, versetto 7, in cui dice il salmista: ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Questo è un testo in cui si nota praticamente un'idea che io nasco nel peccato, nella colpa, in una condizione di colpa. Poi, nell'ambito della letteratura sapienziale, il Siracide, capitolo 25, versetto 24, dice: dalla donna ha inizio il peccato e per causa sua tutti moriamo. C'è l'idea del peccato, diciamo, a partire dalla donna, qui si fa riferimento a Eva e non sempre al povero Adamo, e per causa sua tutti moriamo, il fatto della morte viene attribuito al peccato iniziale. Che numero è di Siracide? 25-24. Grazie. Poi c'è un versetto di Giobbe, 14-4, che però, per la verità, nella traduzione, questo dovrei approfondire perché nella traduzione attuale non ha assolutamente lo stesso, diciamo, senso in cui suonava a gente come Origene, o Origene, che leggevano in questo. Adesso dice così: chi può trarre il puro dall'immondo? Nessuno. Questo è quello che dice adesso. Ma come lo si trova citato ai tempi dei dibattiti tra Origene e gli altri, lui dice, lo leggeva così: nessuno è esente da macchia, nemmeno il bambino di un giorno. Cioè, questo vorrei capire bene come viene fuori una cosa del genere, però per ora non l'ho trovato. Ad ogni modo, questo passo di Giobbe è uno dei passi anche utilizzati. Poi un altro testo, ecco, che forse come importanza è secondario solo rispetto a quello di Genesi nell'Antico Testamento, è quello della Sapienza, il libro della Sapienza. Ci sono per la verità due passi importanti. Uno è il capitolo primo, versetto 14. È così, parto dal 13, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato tutte le cose, qui siamo nel 14, egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c'è veleno di morte, né il regno dei morti è sulla terra. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. E poi nel secondo capitolo, versetti 23 e 24, c'è quel passo noto. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Cioè, questo è un chiarissimo riferimento del Libro della Sapienza al racconto delle origini e al fatto che il diavolo è all'origine dell'entrata del mondo, della morte nel mondo. Quindi, così abbiamo visto tutto l'Antico Testamento. Nel Nuovo, oltre al passo che vi dicevo, capitolo 5 della lettera ai Romani, c'è anche il capitolo 7, importante, dove Paolo dice che io non faccio quello che voglio e faccio quello che non voglio. Quindi non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Cioè, proprio il peccato come una potenza, una forza che io mi ritrovo in me e che mi spinge proprio a fare quello che non vorrei, dice. Quindi Romani da, diciamo, versetto 7, capitolo 7, da 14 a 24, questi sono versetti, o 25. Conclude: siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, perché dice: chi mi libererà da questo corpo di morte? Gesù Cristo. Poi la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, che è tutto quel capitolo dove si parla della risurrezione, come avverrà la risurrezione, con che corpo risorgeremo. E allora dal versetto 20 al 28 c'è una parte in cui c'è anche qui, si parla di Cristo e di Adamo. Al versetto 20 dice: ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché? Versetto 21. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Per mezzo di un uomo. Adamo è visto come causa del fatto che è venuta la morte nel mondo, per tutti. Per mezzo di un uomo verrà la risurrezione dei morti, per mezzo di Cristo verrà la vita nuova. E poi ribadisce: come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Quindi se proprio, ecco, per Paolo quello che ha fatto Adamo è proprio causa di ciò che è avvenuto agli uomini. Qui parla della morte, d'altra parte per Paolo la morte e il peccato sono strettamente correlati. E, ecco, quindi questo è un altro testo molto importante. Poi ce n'è un altro che viene anche questo abbastanza citato nella lettera agli Efesini, poi è l'ultimo. Nella lettera agli Efesini, capitolo 2, il versetto 3 ha questa espressione. Paolo parla prima a quelli che vengono dal paganesimo, no? E dice: anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria. Poi dice: anche noi tutti, come loro, un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni carnali. E si mette dentro anche come esponente del popolo ebraico: anche noi siamo vissuti nelle nostre passioni carnali, seguendo le voglie della carne e dei pensieri cattivi. Due punti. Eravamo per natura meritevoli di ira come gli altri. Eravamo per natura meritevoli di ira come gli altri. E quindi sembra dire che, ecco, proprio per come siamo nati, eravamo in uno stato di colpa, meritevoli di ira. E questi sono i testi fondamentali. Poi ce ne sono anche alcuni altri qua e là, però direi che questi sono i principali. Averli un po' in mente può aiutare già a orientarsi. E quando torneremo un po' sull'analisi di questi testi, vedremo come i capitoli della Genesi, letti alla luce della dottrina di Paolo, effettivamente permettono di ricavare un po' la dottrina del peccato originale così come la Chiesa l'ha formulata. Adesso mettiamoci nell'ambito dei padri. Vediamo cosa troviamo, come leggono loro questi testi, come cominciano a discutere riguardo al peccato originale. Io ho distinto, anche nel computer avrete la possibilità di leggerlo, in queste 5-6 pagine, la prima fase, i padri apostolici, poi i padri apologisti, Giustino e qualcun altro, e poi dopo alcuni nomi principali di padri dal secondo secolo, diciamo inizi del terzo secolo, fine del secondo in avanti. Tertulliano non è un padre, neanche Origene, però sono scrittori importanti in quel periodo. Gregorio di Nissa. La prima cosa interessante è, e vado un po' rapido sui padri apostolici, in documenti come la Didache, fine del primo secolo più o meno, nella lettera di Clemente Romano ai Corinzi, che è del 95-96 d.C., ma anche nella lettera di Barnaba, l'epistola di Barnaba, nel Pastore di Erma, che è un'altra opera importante, sempre insomma a cavallo tra fine del primo secolo e metà del secondo, non ci sono grossi riferimenti al peccato originale, anzi, quasi nulla. Si parla molto di più di Cristo. Si può dire in fondo che è di Cristo che si parla, si annuncia Cristo come centro della fede dei cristiani, lui che è morto per darci la vita. Senz'altro si dice che è venuto a liberarci dai peccati e dall'influenza del demonio, ma il peccato e questa influenza del demonio non sono ricondotti, collegati al peccato dell'origine. Anzi, del peccato di Adamo praticamente non si parla. Un autore importante, sempre di questo periodo, come Ignazio di Antiochia, Sant'Ignazio, lui parla moltissimo di Gesù, che è nostro Salvatore, che è venuto nella carne, è risorto nella stessa carne con cui è vissuto, e però non ci sono riferimenti ai testi sul peccato di Adamo. Quindi la redenzione che Cristo opera ci strappa dal peccato, ma questo peccato non è ricondotto a una causa iniziale, diciamo, in Adamo, ma è semplicemente constatato, cioè siamo nel peccato, Cristo ci libera dal peccato. Quindi diciamo, non se ne parla, non ci sono allusioni ai due testi che vi dicevo, fondamentali, Genesi 1-3, capitoli 1-3, né ai Romani, alla lettera di Paolo ai Romani. Andiamo ai padri apologisti, ci mettiamo quindi nel secondo secolo. Guardiamo Giustino, che è un grande apologista di questo periodo. Giustino parla in un punto importante della sua prima apologia del battesimo e lui dice, lo cito, dice: perché noi ci battezziamo? In proposito, ecco la ragione che apprendemmo dagli apostoli, e dice: poiché nulla sapendo della nostra prima generazione, cioè quando siamo nati, secondo necessità siamo stati generati, un po', parla in termini non proprio positivi della generazione, di come da umido seme per l'unione dei genitori. Per natura abbiamo cattivi costumi e malvagie inclinazioni, poiché siamo nati così, abbiamo per natura malvagie inclinazioni, per non rimanere figli di necessità e di ignoranza, bensì di libera scelta e di sapienza, come dire, e per ottenere la remissione dei peccati commessi prima, allora su colui che ha deciso di rigenerarsi si invoca nell'acqua il nome di Dio. Cioè il battesimo è come una nuova nascita. La prima noi non abbiamo potuto farci niente, ed è stata in condizioni, diciamo, non proprio buone, secondo Giustino. E nella seconda, nel battesimo, possiamo nascere, dice, per libera scelta, se lo vogliamo, e secondo sapienza, e otteniamo la remissione dei peccati commessi prima, cioè nella vita precedente al battesimo. Ora però Giustino qua dice che il battesimo permette di rinascere, però non dice niente delle origini di questo male che noi ci ritroviamo, di questa malvagità che abbiamo per natura. Non nomina affatto Adamo ed Eva. Poi, ecco, un punto in cui nomina Adamo ed Eva è nel dialogo con Trifone, in cui dice che Cristo ci ha salvati con la sua croce, morendo come vittima di espiazione. E poi, a un certo punto, ricorda che dopo il peccato di Adamo, la stirpe umana era caduta sotto il potere della morte e dell'errore del serpente. Quindi richiama Adamo dicendo che dopo di lui la stirpe umana era in balia della morte. Quindi anche in Giustino c'è pochissima riferirsi ad Adamo, è piuttosto accentuato invece il ruolo del diavolo, cioè all'origine del male si vede soprattutto la figura del diavolo e la sua influenza sull'uomo. Non si parla di un'idea di una colpa trasmessa per generazione da Adamo a noi. Si dice che la morte, dopo Adamo c'è la morte nel mondo, però non si parla di un peccato, propriamente un peccato trasmesso a tutti gli uomini da Adamo. E tra gli altri padri di questo periodo, i principali sono, almeno quelli che con riferimento al peccato originale, Tiziano, Atenagora, Teofilo di Antiochia. Ecco, cosa si può dire della loro visione, adesso senza entrare in ciascuno in dettaglio? Intanto che quando loro interpretano i racconti della Genesi, lo fanno in modo, si vede che è un'esegesi molto agli inizi, tendenzialmente interpretano in senso letterale, prendono come fatti storici quelli che sono raccontati, però poi tirano fuori anche insegnamenti molto metaforici e allegorici. Poi, come già in Giustino, è sottolineato molto il ruolo del demonio come diciamo origine del male nel mondo e nell'uomo. Era anche un modo questo di dare risposta, dare una risposta al problema dell'esistenza del male e anche di tutti i disordini che si notavano nel paganesimo. Il demonio non è visto come principio primo del male, però è visto invece come colui che ha istigato l'uomo a compiere il male, a causa dell'ingresso del male nell'uomo e nella storia umana. Tutti sottolineano il fatto che l'uomo è dotato di libero arbitrio e che è stato il cattivo uso del libero arbitrio a produrre per i demoni la loro condanna e per gli uomini l'ingresso della morte, insieme al peccato della morte. Hanno ancora grandi riflessioni in corso su, per esempio, su che tipo di immortalità avessero gli uomini. C'erano discussioni anche sull'origine dell'anima, se era creata immediatamente da Dio oppure no, insomma, era su tante questioni anche antropologiche c'era ancora idee molto in formazione. Senz'altro però, per quello che ci interessa, ancora è assente l'idea di un vero e proprio peccato originale ereditato. Cioè, quello che ha prodotto il peccato di Adamo è stato l'ingresso della morte, ma non è una colpa presente in ognuno degli uomini. Un altro elemento interessante che si può vedere è che la stessa morte è sì una condanna, è vista come una condanna, la morte come punizione del peccato di Adamo, ma anche come misericordia di Dio. C'è una bella frase di Teofilo di Antiochia che dice: dalla sua disobbedienza l'uomo ricavò la fatica, il dolore, la preoccupazione e infine cadde in potere della morte. Da parte di Dio fu un gran beneficio non mantenere per sempre l'uomo in condizione di peccato, ma infliggergli in qualche modo una sorta di esilio cacciandolo dal paradiso. E quindi è un gran beneficio infliggergli in qualche modo una sorta di esilio cacciandolo dal paradiso, perché in tal modo il castigo doveva permettergli di espiare la colpa entro un tempo definito e, espiata che fosse, di essere richiamato. E fa un paragone, dice: come un vaso la cui fabbricazione presenta qualche difetto viene rifuso o rimodellato per farlo divenire nuovo e perfetto, così succede all'uomo che passa attraverso la morte. Egli, per così dire, è spezzato per essere ritrovato intatto alla risurrezione, senza macchia, giusto e immortale. Lo dice questo? Teofilo di Antiochia. Lo dice nella Apologia ad Autolico. E quindi vedono la morte come in fondo un rimedio, qualcosa che non permette alla triste condizione umana di protrarsi indefinitamente, ma se nella morte l'uomo viene come alla possibilità poi di essere rimodellato, riplasmato in una condizione finalmente buona. Esatto. Anche qui, anche tra questi padri, quindi del secondo secolo, ci si attenderebbe di vedere più citati sul peccato originale la Genesi e la lettera ai Romani, e invece non lo si trova, si trova praticamente mai. E la responsabilità fondamentale del male nell'uomo e delle sue conseguenze è attribuita ancora al diavolo, non tanto ad Adamo. Adamo non ha ancora quel posto così centrale che gli verrà riconosciuto dopo. E questo, alcuni un po' studiosi teologi si sono chiesti il perché di questo silenzio dei padri dei primi due secoli, o quasi fino alla fine del secondo secolo, sugli scritti, sui capitoli della lettera ai Romani di San Paolo, dove Paolo appunto dà l'interpretazione del peccato di Adamo. E probabilmente il motivo principale rimane quello che si sottolinea molto di più Cristo. Ancora si guarda molto a Cristo come Redentore che libera l'uomo dal peccato e dall'influenza del demonio, e non si è ancora messo a fuoco più di tanto l'importanza del peccato di Adamo. Quando si parla del peccato tendenzialmente si cita Adamo, ma poi immediatamente anche citano tutti gli altri, citano Caino, citano tutta il dilagare del male, che poi si trova effettivamente anche raccontato nei capitoli 4 e seguenti della Bibbia. Quindi Adamo non ha ancora quel ruolo privilegiato, diciamo in negativo, che gli verrà piano piano riconosciuto più tardi. Allora, ecco, passiamo adesso, dopo i padri del secondo secolo, passiamo a Sant'Ireneo. Anche lui vive a cavallo un po' tra il secondo e il terzo secolo, grande vescovo di Lione, e questo è un autore già senz'altro notevole e importante, anche perché Ireneo ha una visione piuttosto ottimistica della storia della salvezza e dell'uomo, a differenza di quella che si trova un po' in Agostino, si troverà in Agostino. Allora, aiuta la visione di Ireneo anche un po' a bilanciare la visione un po' più negativa e pessimistica riguardo all'uomo che ha Agostino. Vediamo un po' i punti importanti della dottrina di Ireneo. Lui si confronta, come altri di quel periodo, con le eresie gnostiche, e quindi cerca di dare la risposta della fede al problema dell'origine del male, e quindi si interessa molto di questo punto, di questo tema. Ireneo prende alla lettera i capitoli di Genesi con i racconti della caduta, e però ricava anche interpretazioni allegoriche. Adamo per lui è formato effettivamente dalla terra. Il paradiso era una regione vera del mondo, un posto ben determinato. Il peccato di Adamo ed Eva, su cui mi sembra che non entri tanto in dettaglio sul tipo di peccato, comunque riceve come punizione la cacciata dal paradiso, la sofferenza e la morte. Anche lui insiste e sottolinea che questa è una misericordia da parte di Dio. Non è solo è una punizione, ma che è atto di misericordia di Dio. E lo spiega così. Fu un atto di misericordia allontanarlo dal paradiso perché non continuasse a trasgredire, affinché il suo peccato non rimanesse in lui, in Adamo, per sempre come un male insaziabile senza rimedio. Sembra che qui, come dire, togliendogli l'accesso all'albero della vita, da cui lui poteva continuare a mangiare per avere, per rimanere in vita e quindi rimanere sempre nella stessa condizione di peccato, togliendogli l'accesso al paradiso, gli impedisce di protrarre il peccato per sempre. In questo modo gli ha impedito, Dio, gli ha impedito di continuare a trasgredire il suo comando. Qui sembra far riferimento anche al fatto che non ha più neanche accesso all'albero della conoscenza del bene e del male, quindi non può più continuare a commettere quel peccato perlomeno. E gli impose la morte e segnò un limite al peccato, mettendo un termine alla sua vita sulla terra mediante la dissoluzione della carne. È un po' simile a quello che diceva Teofilo. In questo modo l'uomo, morendo, avrebbe smesso di vivere per il peccato e avrebbe cominciato a vivere per Dio. La morte, quindi poi la risurrezione, sono viste come il momento nel quale l'uomo può finalmente chiudere per sempre con il peccato e vivere per Dio. È interessante come lui parla dell'immortalità del primo uomo, di Adamo, perché ci possiamo capire un pochino, forse avere anche qualche luce su come intendere la condizione originaria dell'uomo, lo stato di paradisiaco, diciamo. Lui dice che Adamo riceve da Dio la vita, e una vita che era però ancora precaria, cioè che andava assicurata man mano che Adamo avrebbe sentito il bisogno del soccorso di Dio. Cioè poteva, chiedendo a Dio, diciamo, contando sull'aiuto di Dio, avrebbe potuto protrarre la sua vita. Non aveva un'immortalità, diciamo così, già data, assegnata, assicurata, ma l'avrebbe ricevuta, diciamo, passo passo da Dio, in un rapporto di fiducia con Dio. È interessante questa idea, che mi sembra che può essere anche effettivamente una buona visione di come si può immaginare la condizione iniziale dell'uomo. Ecco, il genere di peccato che hanno commesso Adamo ed Eva, dice Giustino, è stato fondamentalmente una disobbedienza all'ordine ricevuto da Dio. E ha causato un danno per tutta la discendenza. Adamo causa per tutti gli altri la morte, la sofferenza. Però, ecco, dicevo all'inizio che Ireneo comunque tutto sommato ha una visione molto ottimista. Siccome lui è consapevole che Dio Padre ha mandato Cristo nel mondo per ricapitolare la vita e la storia proprio dell'umanità, tanto che lui fa tanti paralleli tra la vita di Gesù e la vita di Adamo. In Gesù è come se l'uomo venisse riplasmato e la sua storia venisse ripresa e corretta. E grazie a Gesù noi possiamo adesso avere lo Spirito Santo, ci abituiamo già, dice, a portare Dio, e Dio si abitua a stare in noi. Allora, proprio per questo, e ci conduce verso una progressiva divinizzazione. Proprio per questa idea molto positiva del disegno di Dio, grazie a Gesù e grazie allo Spirito Santo, Ireneo dice: sì, il peccato di Adamo ha causato per tutta l'umanità la morte, la sofferenza, una certa sottomissione al demonio. Però lui in fondo continua a vedere l'uomo come fondamentalmente la creatura di Dio, che è capace di dire sì a Dio, è capace di fare il bene. E, ecco, mentre Agostino vedremo che vedrà l'uomo, come l'umanità, come una massa dannata, in assenza della grazia di Dio. Ireneo è senz'altro più positivo. Bene, facciamo rapidamente anche Tertulliano, in modo che poi la prossima volta ci restano solo due di questi padri, di questi autori, e poi dopo andremo avanti. Tertulliano è dello stesso periodo di Ireneo, un pochino successivo, una ventina d'anni dopo, nasce, e anche lui ha a che fare con più o meno le stesse eresie gnostiche, che avevano vari modi, anche fantasiosi a volte, di spiegare l'origine del male. E, per esempio, c'è il suo confronto con Marcione, quando lui scrive l'Adversus Marcione, Tertulliano, e risponde all'obiezione di Marcione, alla critica di Marcione, per cui Dio sarebbe in fondo l'autore del male, perché, dice Marcione, Dio avrebbe permesso all'uomo debole di peccare e poi l'avrebbe punito con la morte e tutte le altre miserie che si vedono. Quindi Marcione dice: ma in fondo l'autore del male è Dio, perché ha creato l'uomo in una situazione di debolezza, poi quando l'uomo è caduto a peccato lo ha punito. Questo è il Dio cattivo, secondo Marcione, dell'Antico Testamento. Poi c'è il Dio buono, che è il Dio di Gesù, che viene dopo. Tertulliano risponde a Marcione dicendo che il problema è stato il cattivo uso della libertà da parte dell'uomo. L'uomo è stato creato libero e, sedotto dal serpente, ha abusato della propria libertà. Quindi Tertulliano, proprio per rispondere all'insinuazione di Marcione che Dio sarebbe all'origine del male, sottolinea giustamente molto il libero arbitrio dell'uomo e il cattivo uso di questo, della libertà. Tra l'altro lui dice: Adamo è molto colpevole, perché Tertulliano vedeva l'uomo come superiore addirittura agli angeli. Lui leggeva in modo piuttosto letterale il fatto che gli angeli sono a servizio dell'uomo, e quando dice Gesù poi che l'uomo giudicherete gli angeli, allora lui diceva l'uomo addirittura era superiore agli angeli. E ha trasgredito consapevolmente il precetto di Dio. Quindi la colpa di Adamo è molto grossa. Adamo è responsabile dell'ingresso della morte nel mondo, della sofferenza, delle altre conseguenze del peccato. Quindi non è Dio il responsabile di tutto questo, dice Marcione. Dio piuttosto, per Tertulliano, è misericordioso, anche lui sottolinea la misericordia di Dio, e legge questa misericordia nel fatto che Dio, immediatamente dopo il peccato, dice la Genesi, va a cercare l'uomo, subito lo chiama, dice: Adamo, dove sei? E la bontà di Dio che va in cerca di Adamo per farlo arrossire, per permettergli di cominciare l'espiazione. E quindi la natura del peccato è stata una disobbedienza di un uomo che era creato in modo libero e responsabile. La morte è intesa da Tertulliano sia nel senso normale del termine, morte quindi come fine della vita terrena, ma anche come separazione da Dio, che mette l'uomo in uno stato di miseria morale. Ecco, è interessante, poi su questo praticamente concludiamo, come vede il legame tra tutti gli uomini e Adamo. Nell'ambito delle tante teorie che c'erano sull'origine dell'anima, Tertulliano sposa la tesi del traducianesimo o generazionismo. Cioè, secondo lui, tutte le anime derivano da una, in particolare tutte le anime derivano dal progenitore, da Adamo, e in ogni generazione umana un frammento dell'anima del padre in particolare passa al figlio. Quindi l'origine dell'anima in ogni persona viene dal padre nel processo di generazione, per cui tutte le anime, derivando in ultima analisi da quella di Adamo, che è macchiata dal peccato originale, sono macchiate anche loro dal vizium originis, dal vizio originale. Tertulliano aveva un'idea positiva del corpo, della carne, e quindi non fa come faranno alcuni altri autori, che attribuisce la macchia anche nell'anima al fatto che l'anima sta in un corpo di carne. Origene penserà questo, Origene penserà che il difetto nell'anima viene dal fatto di essere unita a un corpo carnale. Invece per Tertulliano no, le anime sono, ciascuna porta con sé la propria macchia, perché vengono tutte da Adamo. Non è chiaro ancora se questa macchia, questo vizio originale, sia propriamente anche un peccato, o sia solo quella che Agostino chiamerà concupiscenza, che propriamente non è il peccato, bisogna distinguere. Ancora non era chiara ai tempi di Tertulliano la distinzione tra peccato e concupiscenza. Comunque lui parla di un vitium originis, di un vizio originale. Bene, io concluderei qui. Poi la prossima volta concluderemo rapidamente gli ultimi due autori e cominceremo Agostino. Per cui, se volete, potreste leggere Agostino, su cui testi uno dei file in PDF che avete, ce n'è uno in cui ci sono quattro nomi.